c'avevo un Vittoro che mi pare che faceva 15, 20 e 40, se non mi ricordo male, o addirittura 20 e 40 solo, non mi ricordo. E poi piano piano, insomma, si cresce, dai. Con l'esperienza poi si cresce. Sì, devi fare così. Ti crei la parte VU indipendente con un'antenna, va bene, anche una Diamond non molto grande, una 300, che non ti crei molto spazio. Attenzione, Reggio Maria. È piccola, abbassa le volte tu. La gente giù. L'ho sentito, Tonino c'è. In PMR deve essere. Ma lo è, vai sulla via radio. Insomma, ho interrotto e ho vestito on off. Cosa vuol dire MV? MV solo un spingi, Tonino, spingi. Ah, Gio Maria è parito. Ma quindi riceve, Tony, riceve il canale 23, ci senti, sì. Rispondi in PMR. Tonino. Eia. Ma ci senti qua sul 23? Ah, c'è complimenti. Cosa ne so, bisogna correndo una gamba da razza, con il ricevitore in cucina e con l'altro fa vedere anche una veretta. Tony. Ui, ui, ui. Mamma mia, come sto? Aspetta, ecco, fatto. Niente, sono preparato perché devo comprare la C4. Sì, ma ti ho detto, ci senti dal ricevitore sul canale 23? Funziona con l'antenna o no? Perfetto. No, aspetta, no, non lo posso mettere con l'antenna perché l'attacco è diverso. È a spillo, è in castro, ma l'ho detto. Ah, ho capito, ho capito. Quello va bene per le V e per le U. Va bene, non fa niente, faccio la voce. Quando userò il Baofeng in macchina. Anche Baofeng in macchina? Ah, sì, quell'antenna per la macchina la usi in macchina. Capa. Beh, per quella te l'ho dato io. Poi era una cosa provvisoria, no? Ma non penso al portatile, Tony. Cosa, ma vuoi? Ho detto, portate la presso al portatile. Porto la presso. Accompagnati qua, tra 2 e 9, mi arrivo a portare la presso. Aio, ma lo è. A vedere come esci in quella zona, no? Esco bene, ma sto andando zona, va bene. Andava, già. Tragitto lungo, devo andare a qualche posto, devo stare in zona di giro la città, allora sì che me lo metto, capito? Ma quando è tornato, ma... Bizona lo faceva Lino Banfi, capito? Allenatore del pallone. Poi faceva anche il modulo a farfalla. A me quando vedo Lino Banfi ogni giovedì a scalare 34, mi fa pisciare le risate, gà. Se metti al 34, me già lo prendi adesso. Se metti al 34 ogni giorno ci sono i film di Lino Banfi. Cazzo di vera, allenatore del pallone 2. Cazzo vera, morire le risate, gà. La Longobarda, la sua squadra, i Sugar. L'avete ci sapendo. Allora, sai cosa è successo ieri? Dunque, ho lavato la roba di lavoro, eccetera. Poi nel pomeriggio, giustamente. Poi ha piovuto al mezzo, l'ho messo all'interno. Poi ha smesso di piovere. L'ho messo fuori. Stamattina ho trovato la sorpresa. Tutta la roba che c'era la bella sciolata, grande bianco. C'erano centinaia di moscerini con le ali, piccoli, ma è un casino venire. Beh, qualche uno si è svegliato nel mezzo della metà, si è volato, e poi c'era ancora attaccate, ho rimesso tutta la trice, e adesso le affogo. E ci abbiamo solo di nuovo la roba. Ma sai quelle cosa sono? Quelle sono le falene, con la luce accesa entrano. Anche a me fanno così la sera, infatti sto chiudendo il fogliolo. Capito? Perché l'unica porta dove non c'è la zanzariera, con la luce entra, queste sono le falene, quelle piccoline, ci sono quelle grandi enormi, ma ci sono anche quelle piccoline. Ma questi non so quelle che si accendono, se illuminano. No, dove vedono luce entrano. Ma non ho mai visto qua, mica, la verità è la prima volta. Neanche io li ho mai viste qua, è la prima volta, però sicuramente è il periodo, capito? Ci sono dei periodi dove ci sono queste farfalline. Che non sono, insomma, farfalline sono, però, cazzo sei magnente, te ne ingaggi rubiato, mi ci viene le balle. Addirittura se la piova c'era un gruppetto, ho sfruttato un po' di bagno, le ho uccise. E il bagno non ho sfruttato dentro casa, cazzo è nocivo. c'è quell'IDP particolare per interni che non è nocivo, e gli ammazza lo stesso. No, io l'ho usato all'esterno sui lampioni rotondi, quei bianchi, le sfere, all'esterno l'ho usato. Hai visto che vanno sulla luce. E via, fatti di giugno, porca miseria. Adesso di nuovo faccio un lavaggio rapido, se me mi accovo. Così, no. Infatti io tutte le finestre hanno le zanzariere, la porta a finestra del poggiolo non ne ha, perché c'è il cane, entra e esce, non la posso tenere, cazzo mi rifascia, quindi non ne ho messo. Entrano da lì e quando accendi la luce del salone, entrano. Se rimani al buio non entrano, capito? E quindi ho adottato il sistema, adesso è ancora aperta la porta, pronto la chiude mia moglie. Quando inizia a fare buio e allora accende le luci. Per il momento sono tutte spente le luci. Io ho le zanzariere, ma me le metto, mi dimentico sempre di mettere, c'è la miglia luci. Andrà bene, Manuele. Mi sta ascoltando. Ma va? Ti si volta dice buco mia, puoi ascoltare. State parlando, lo Basilia, sta ascoltando. Sono il figlio che tu parla, povero Basilia. Aspetta che non mi va il microfono. Cos'hai detto? Che non le va il microfono. Poi la tua non si bascia, o poi si... Ma io non ti comprendo anche un pezzino, boh. C'è a comprendere un microfono, boh. Oh, mi dirà che cosa. Sai come quando la mattina si mette sotto aceto, poi c'è tutto spremuto. Ma io lo gioco, boh, so. Amici come te, un po' chiama microfono, poi chiama antenna, a voce si chiama Eto, voleva trasmettere con le dita, ma non ci riusciva, con la vecchia, a fare la fango, boh. Ah, ma no, che non sono i buoni due, le fate l'incrocio. Quando mi ha detto, sto usando la canna a pesca, ci va anche a piccare, mi ha detto, sì, era fatto prima di una Game Master, è fatto prima. No, guarda che quell'antenna che c'ha lui, uguale a quella che c'è tu, mi se la mette sul tetto, tu c'è un segnalone, 6920 abbondante, capito? Quella se la mette sul tetto, esce molto bene, qua è 910 lui. E poi la zona buona che c'ha anche, esce forte sì. Però passa pure a me, passa. No, qua non ti passa, forse da Torino sì, ma qua no. Non lo so. Passi pure che... Ma no, è... Anche così basso, in basso, esce forte. Per quello che... Quella è la zona buona, Sì, è buona, sì. No, ma no, non ce la fai, sei tu. Se 9.10 è torre 9.20 abbondante qua. E anche più alto di Torino. Fammi no, ho sentito qualcosa sotto, pensavo stavo riprovando. Ma Torino sì, sicuramente lo passi. Ma qua no. No, arriva bene Emanuele qua. Torre. Se la mette sopra il tetto quell'antenna arrivi anche arrivi giù. Ma Claudio, dove torre è diretto verso di te? Io sono qui in campagna. Ma tu puoi essere in campagna che s'antenna che hai buccio, usci a 2 metri a sedia. Sì, quasi 9.20, quindi sei ultimo, va bene. Però è chiaramente più aperto, l'antenna è in alto, 9.20 abbondante, ma siete lì e non è che lo sento sotto, ti sento sotto ma non riesci a passarlo, quindi avete degli ottimi risultati. Vabbè, mettendola lì. Se mi dà il permesso di mettere sul tetto, io penso che guadagniamo qualcosa in più. Cosa ride chi? Cosa ride? E lascia che vengo io un giorno alla Gran Fia Vittorio, buon amore del good. Ma io qua c'è a fare questo e questo, a rompere le palle. E Bugani che s'antenna da no, che metto la carriera e fagliela mettere due staffe, fatte bene, sotto il tetto. E girami i bibirici, ho detto qua per mettere una iatta. Il cavo già ce l'abbiamo. Ho trovato quella mattazzola di cavo, ho detto che c'è il cavo? Mi sembrava cavo elettrico. Ah, io se metto l'antenna come Cristiani ti do il coso, il 213, quello buono, che non è grosso, il mild, con centrale rigido, già i piedi attaccati, cosa? E lo va a entrare il vacone, cosa? Quasi dicendo. Non disturba assolutamente niente, proprio niente, nel 1058 di lampe, l'antenna va messa come Cristiano, perché tanto la piazza bene con l'antenna, buca di Valgabo, un gabbiati che si attacca l'altro radiale, se la vuoi lasciare lì, si piazza come dico io, si mette altri 2 metri di tubo e si solleva oltre la casa la voglio vedere con l'antenna io. A voi di mi dare la risposta. Chi è che stava cercando di entrare che non ce la faceva? Sentivo tipo un topolino sotto, ma piccolo, chi è che vuole entrare? Cioè, cercando di sopravvotare non ce la faceva, non ho capito, ci tentano pure. Farò tenta, vuol dire che c'è la passione, cosa vuoi dire? Io sto andando normale, senza disturbare nessuno, se poi qualcuno vuole disturbare, avanti un altro. No. Ho cambiato la batteria, dai, com'è? Va bene, lasciala così che va bene. E va bene, date altri numeri sul microfono. Oh, numeri, dai. Mi devi, Tony, ti devo dare un lavoro da fare. Ti do l'altro microfono, se mi fai lo spinotto che c'è il datore. Sì, ma bisogna farlo da tempi. E lo facciamo qua. Però c'è un problema, mi devo portare quella lapada portatile a letto, dai. Ma forse ci metterò più illuminato, guarda. Mamma mia, ma lo è, che se c'è una cosa me la fatti, io sono sempre vedendo come moglie. Io voglio luce, anche dentro casa. Cazzo, sempre la luce, ma è un campo usato, accendimi le luci. Cazzo, ho 3 lampade nel salone, ma accendi una solo. Un piccarusi da gosso, da lumicino, accendi la lampada grande, io voglio luce. Tu immaginate che qua in sala radio c'ho 2 faretti a parete dove c'ho le radio, faretti, baromi, e uno all'angolo, ok? E più la luce centrale. La sera io accendo almeno un faretto puntato sulle radio, io voglio luce, che lo so che fa vedere, mi voglio vedere fa vedere, no lo voglio. Ma hai visto quanta luce ho io qua in casa, là, sia pure che te? Ma è così deve essere, no, a me il buio non mi piace, anche perché ti metti a fare qualcosa e non vedi un cacchio, cioè se devo usare già un PL, non posso usare un buggio. Oh, Ocla. Oh. Se mi do l'altro microfono, non è uguale. Questo è un altro microfono ancora, questo è un bel forte. No, sempre quello, solo che a volte esce, a volte no, non so qualcosa. Questo non lo so neanche io, se non c'è qualche falso contatto, non lo so, cioè si aumenta da solo. No, non è che si aumenta, non esce di radio, adesso va bene. Oh, scusate, che è già 50, dai, ci sentiamo dopo, se mi trovo. Ciao. E già siamo qua. Sa già una giustizia. Tu che l'attore ti racconta? L'attore dallo che te lo ripara. Che l'attore? L'attore squalo. E io si deve fare un coso, ti vado. Un microfono di voto. Ah, che non è capace, Tore. Come non è capace? Da dove ne fasi uno, di virtù. Vabbè, ha capito mai me, devo avanzare, no? Ma che microfono è, mamma? È un microfono di 30 anni fa. Ci avrà sì o no, guarda, non ti dico male, una ventina anni fa. Un 20 anni, 20, 25 anni, cioè. È della Dynamic Mickey, quello nero. Con la rotella sopra. Dynamic, sì. Ma è da Palmo? Sì, da Palmo. Quelli ci fanno bene un periodo. Quelli faceva anche la Fayette, lo sai, con la rotellina. Con la rotellina in alto, riuscivano bene, c'erano la batteria dentro, quella piccola stilo, mini stilo. Sì, quello lì è. Solo che cazzo esce bene, anzi funziona bene perché me ne accorgo dallo Smith. Però quando a volte esce, a volte no, non fa contatto, boh, non lo so. Comunque vai scendi bene. No, te lo dico io cosa le fai a quella. Il contatto intanto dell'amplificazione per alimentare il circuito di amplificazione, no? È tutto basato su quella batteria mini. Allora stai attento, se quella batteria gioca all'interno, se le lamelle non stringono bene e gioca, non alimenta al 50% il circuito di preamplificazione. Allora tu cosa fai? Nella batteria gliela metti, no, la metti nella sede e poi se ce la fai un elastico di quelli piccolini da una parte all'altra girali per tenerla attaccata bene, per far bene contatto. No, non gioca, Oca, non c'è, il problema è quello, l'ho guardata prima. Tra lamella toccano bene, anzi, se la devi infilare bene, ma entra che è un po' conduce. fa bene, no, non gioca la batteria, secondo me dipenderà da, dallo spinotto. Dallo spinotto del microfono che va alla radio? Sì, sì, sì, sì, perché secondo me come cerco quando modulo, se si tira un po' e fa con cazzo. Se no lo dirà tu, chi lo dici? Tira della bicicletta. No, tirare, quando lo alzo il microfono, se come lo muove appena, adesso non ti fa ben contatto. Ma adesso vedo che sto uscendo bene. Allora c'è qualche cavo, qualche filo, tocca o non tocca, capito? O che si sta spezzando, devi cercare di capire dov'è, giuntarlo e vulcanizzarlo. Saturnino in casa, gli faccio fare anche quello là, è un altro microfono della F4, mi sembra, M4. Quello dell'Alan? No, aspetta, non è della, aspetta un attimo. Questa è quella della ZG M93. Ma questo che stai usando, adesso ti sei riabbassato il radio. Ora, mi senti? Più basso del radio, tocca il mentre stai parlando, non mollare la portante, tocca vicino all'attacco della radio. Adesso sta uscendo. No, devi fare, schiacci la portante, fai ola, e tocca il cavo, la spirale, toccala, tirala, prova. Un par di palle, sei basso il radio, prima eri più forti, vero Tom? Ehi, sta uscendo più basso, sta uscendo, prima mi arrivi alle 9.30, va, mi arrivi alle 9.05. C'è qualche falso contatto lì, Manuel, devi controllare bene quell'impianto, devi controllare bene tutto, guarda la ghiera, si è avvitata bene, se c'è qualche falso contatto sulla ghiera, del microfono, se il microfono, se il cavetto del microfono, tante cose può essere. Per pondere il tutto, un attimino che farà bene. Cosa mette la modulazione con il segnale, Otto? Il segnale è sempre Mattesi, no? No, perché poco fa stavi arrivando 9.5, mi stavi arrivando. E la modulazione era bassa. La modulazione ti posso dare ragione, perché non esce. Il segnale è sempre uguale, non vedo nulla con il microfono. Adesso mi stai arrivando giusto, mi stai arrivando. Se non ti va bene, cambiatela. Emanuele. Sì, Otto, aspetta un secondo. Adesso gli ho messo quello normale, dai. No, lo devo far controllare questo microfono. A te c'è più bene con chi su manuale che con chi tu. Questo è il suo originale, dai. Certo, c'è più bene con quello lì che con quell'altro. Perché l'altro è più amplificato. Spinge di più di modulazione. Questo qui è quello normale. Ma secondo me fa qualche contatto dallo spinotto. E allora vuole controllato bene, vuole controllato. Sì, no, la suisso e si apre le luci. E infatti è così. E fai bene. E Berto. E Lucio Marì, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Manuel. Ciao Lucio Marì. Chiacchierate. Mi sa che non viene a gara. Allora sono da solo. E beh, di pochi, non se la giuro. Momento, provato vai in PMR quella roba là. Sì, ce l'ho sul PMR, l'ho messo. Ma cazzo non entri in barabbi come ti esci? Ero su Manzano. Un Gian Maria. Oh, io non c'ero, ero al ghetto stamattina, dovevo fare delle commissioni e non c'ero tutta la mattina, c'è durata di 2 mesi o 3. No, volevo provare l'MP5 in quella radio lì, però lungavo, non andava, rimanevo l'abortante. Ma scusa, non te l'ha fatto Luca lo spinò? Parlo per l'M60. Non va bene l'M60, è molto meglio l'M60. Se te lo faccio sentire, sente quel rumore. Ma qua in PML o in 27 stai dicendo? Tutte e due si intende. Vai a vedere in PML, che è già acceso. Aspetta, devo staccare il cavo, il microfono da qua e attaccarlo là. Via. No, Mari. Cos'è? C'è stato, andiamo a fare esperimenti.